Degli effetti delle obbligazioni. Le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge per coloro che le hanno fatte. Non possono essere revocate che o per mutuo loro consenso o per le cause autorizzate dalla legge. Esse devono essere eseguite di buona fede. Le convenzioni obbligano non solo a ciò che vi si è espresso, ma anche a tutte le conseguenze che l'equità, l'uso o la legge attribuiscono all'obbligazione secondo la di lei natura. Dal codice di Napoleone il Grande per il Regno d'Italia.